La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, la prima rosa di maggio. Insomma, siamo proprio, come dire, lupus in fabula. Il tema floreale del mese, la rosa, più purpurea di così non si può. Mese delle spose, mese delle rose, mese del cinema, maggio. Tra l'altro ci sarà anche la festa del cinema fra qualche giorno, con qualche giorno di cinema molto molto scontato in tutte le sale. Dicevamo, come sempre, il meglio delle uscite della settimana in sala, sul grande schermo, e poi tutto il cinema da vedere in casa. Una settimana variegata, col cinema italiano molto presente, con nomi importanti, con il cinema americano d'impegno civile, chiamiamo così, con un film come Effetti Collaterali, con le grandi atmosfere fiabesche che diventano film. E allora andiamo a riepilogare i temi nei nostri titoli di testa. Un medico sensibile, una paziente depressa, una casa farmaceutica avida. È il mix esplosivo di Effetti Collaterali, il nuovo film di Steven Soderbergh con Jude Law e Catherine Zeta-Jones, per riflettere sul rapporto della società moderna con la salute e la responsabilità. Ex stuntman di Cinecittà si arrangia facendo il centurione al Colosseo per tirare a campare. Incontrerà Milan, ingegnere bielorusso emigrato in Italia, che gli aprirà una nuova finestra sul mondo. Convince Ben-Hur, commedia agrodolce di Massimo Andrei, ospite alla Rosa Purpurea. Convince anche l'esordio da regista di Valeria Golino con Miele, una storia sul drammatico tema dell'eutanasia interpretata da Jasmine Trinca. Irene, 30 anni, aiuta i malati terminali a morire, ma l'incontro con un settantenne che si è semplicemente stancato di vivere cambierà la sua vita. Michele Placido, regista di un polar francese, Il Cecchino. Il capitano Mattei, della polizia di Parigi, sta per incastrare una banda di rapinatori, ma deve vedersela con un cecchino e con chi rema contro all'interno del corpo dei Flic, con Daniel Auteuil, Olivier Gourmet e Mathieu Kassovitz. E cominciamo allora proprio da Hansel e Gretel. Cominciamo con questa rivisitazione in chiave più che moderna, diciamo così, in chiave action, delle atmosfere dei creatori delle fiabe più famose, ma spesso anche più truculente, più gotiche del mondo della fiaba. Lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Io e mia sorella abbiamo un passato. Una strega ci ha quasi uccisi. Ma quel passato ci ha resi più forti. Avevamo assaggiato il sangue, sangue di strega. Il prologo già racconta tutta la favola dei fratelli Grimm. Hansel e Gretel, figli di un taglialegna, abbandonati nel bosco, vengono ammaliati da una strega con la casa fatta di dolci, ma riescono a fuggire. Cosa succede dopo ce lo racconta questo film. I fratellini, ormai cresciuti, sono diventati i migliori cacciatori di streghe sul mercato e hanno per le mani il caso più difficile di sempre. Nelle ultime 2 settimane 5 bambini sono stati rapiti. Una strega non esce così allo scoperto. Questa non è una caccia alle streghe. Qui si tratta di qualcos'altro. Dobbiamo trovare quei bambini. Uniti e poi separati, con un giovane apprendista e un troll come aiutante, si ritrovano a sventare una strage di innocenti, organizzata dalle peggiori streghe in circolazione, ritornando anche dove tutto è cominciato. Questa è... Sì, sì, sì. Wow. Fa quello che vuoi, ma non toccare quei dolci del cazzo. La passione hollywoodiana degli ultimi anni è evidentemente la trasposizione di favole classiche in film action, fantasy o dark. Dopo I fratelli Grimm di Terry Gilliam, 2 volte Biancaneve, Cappuccetto Rosso Sangue e ora questi Hansel e Gretel cacciatori di streghe, interpretati da Jeremy Renner e Gemma Arterton, la seconda più convincente del primo. Non del tutto convincente è però l'intero film, godibile sì, ma niente di più. Nessuna innovazione della trama, l'età adulta serve infine a superare i traumi dell'infanzia. Nessuna innovazione nella tecnica, anche se il 3D funziona. Una graphic novel con abiti alla Robin Hood e armi fantasiose. Un finale da pilota di serie TV, pronta per i prossimi episodi in caso di successo, che al botteghino internazionale non è mancato. e anche da noi il film pare essere piaciuto nelle prime visioni. Hansel e Gretel, un magnifico film, diciamo, che rivaluta la figura del cacciatore di strega, aggiunge la parità dei sessi, visto che Gretel attiva quanto il fratello, un po' di splatter. Belli sia gli effetti speciali che, vabbè, character design spettacolare. Un po' un'americanata, però tutto sommato salvabile, dai. La trama non mi ha sconvolto, però è stato un bel film. Non lo so, ho trovato questo horror così gotico, ma anche leggero, divertente, molto bello, mi è piaciuto. Piaciuto sì, se uno non si aspetta troppo da questo genere di film, un paio di citazioni dal Mucchio Selvaggio, ad esempio quella della mitragliatrice, direi accettabile. Sì, molto bello. Io poi adoro i film fantasy stile steampunk. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, ecco la seconda parte del nostro programma. Vi abbiamo detto prima il film che ci ha convinto di più delle uscite di questa settimana. È stata una vera sorpresa. Stiamo parlando di Ben-Hur, come dicevamo prima, tutto attaccato e senza la H. Quindi il richiamo fonetico è chiaro, ma il titolo è un altro e ben inquadra il clima anche ironico con il quale si racconta questa storia, che è la storia di due fratelli cinquantenni. Due solitudini, potremmo dire, quelle che si sono a un certo punto unite, quella di Sergio e quella di Maria. Lui, un passato da stuntman glorioso a Cinecittà, che un grave incidente ha interrotto bruscamente. Lei che si arrangia facendo praticamente la voce delle hotline in maniera, come dire, abbastanza divertente. Se non che per campare, in un certo senso, Sergio si arrangia a fare il centurione fuori dal Colosseo. L'avrete visti tutti andando a Roma, visitando il Colosseo, fuori questi signori vestiti da antichi romani con i quali ci si scatta una foto, si fa un'offerta. Ecco, questo è il mestiere, lo chiamiamo così, mestiere con il quale Sergio cerca di tirare avanti. Fino a quando, a un certo punto, nel loro tran tran quotidiano, arriva un immigrato clandestino proveniente dalla Bielorussia che si chiama Milan, che rivoluzionerà completamente il loro ménage, la loro vita, e soprattutto aprirà agli occhi di Sergio e Maria una finestra sul mondo che fino a quel momento era restata chiusa. Si sono la tua scimmia bollente. Piassi fuoco. Almeno fate cambiare di turno, no? Che poi, scusa, sempre mia sorella sei, eh? Rumori e il casco di tutti. A me. Ero tra i primi 5 stuntmen di Cinecittà. Invece adesso, guarda, ti do toffa lì il buffone al Colosseo. Sir, give me the money. Sir. Come ti chiami? Milan. No, cominciamo male, perché se c'è una squadra proprio in supporto è il Milan. Allora, famo così, io ti do il lavoro e famo metà ciascuno. 30 a te, 70 a me. Che stai a fare? No, sta buono te, sta buono. Sta al posto mio per una settimana. Giro per il mondo. 112 euro. Ma te manco d'estate, i paese. Ma sto Milano già fa in bianchino. Fare stucco, Romana, Maria, ha fatto un capolavoro. Ma che scuole ci avranno in Bielorussia? Siamo Italia, che bel paese. Mi avvirente, pare vero, se hai trovato la cuccagna. Visto che sei stato onesto, stavolta dividiamo. Dai, grazie. Sì, però non ti ci abituare. 9,50 diviso 2, quanto fa? 475. Come cazzo fai? Oh! Forza mia! Raramente alla Rosa Purpurea teniamo così lungo un trailer, ma è uno dei trailer più divertenti e più ritmati e ben montati che abbiamo sentito, anche a livello audio. E con noi il regista di Ben-Hur, Massimo Andrei, che saluto. Ciao Massimo. Sono qui, eccomi. Eccoti. Sappiamo essere in stazione, quindi magari sentirete degli annunci, non preoccupate. Sì, parte di un fondo sonoro metropolitano, ma devo dire complimenti a chi ha montato questo trailer, perché era un sunto, diciamo, un po' di varia storia e molto divertente, ne dava molto bene la idea, insomma. Senti, raccontaci un attimo la genesi brevemente di questo film, che ha un pregresso teatrale e che tu hai portato in scena togliendo le quinte, aprendolo alla città. Esattamente, ma devo dire la genesi, venendo dal teatro, per me rimane onorevole, anche se talvolta qualcuno sente il teatro si stranisce un poco. Invece di teatrale alla fine c'è ben poco, perché qui è un altro media. Naturalmente abbiamo sfondato completamente questo giorno in cui avveniva la vicenda, più o meno veniva raccontata, declamata, Io tra l'altro non ho mai visto, proprio di proposito, non ho mai voluto vedere la commedia, proprio per non avere eredità, come dire, di stile, anche perché avevo in qualche modo poi scelto gli stessi attori che hanno fatto tanta palestra con questo testo in teatro, per cui mi sono arrivati allenatissimi sui tempi, sulle cose, però avendo cambiato poi io tutto, movimenti e in qualche modo sfrondato diciamo il testo e la scrittura di Gianni Clementi, lo aveva già fatto di per sé, io poi l'ho ancora di più rivisitata, e naturalmente è stato faticoso perché loro portavano con sé anche delle abitudini che potete immaginare, però voglio dire sicuramente è servito tanto il fatto che aveva questo tipo di genesi, cioè che era stata fatta per centinaia di repliche in teatro. Ecco, Massimo, un film che ha una bella storia, perché è agrodolce, dove l'agro pesa più o meno come il dolce, e questo è molto importante, anzi forse pesa di più, perché c'è un cinismo di fondo anche nel personaggio di Nicola Pistoia, sfruttatore però con anima, chiamiamolo così in un certo senso, ma un film che a mio modo di vedere si regge su delle interpretazioni attoriali straordinarie. Nicola Pistoia lo conosciamo, ma la rivelazione clamorosa di questo film è Paolo Triestino. Sì, in realtà un perno, diciamo così, principale di questo ingranaggio è veramente la triade di attori, Nicola Pistoia, Paolo Triestino ed Elisabetta De Vito, che erano già, poi naturalmente ce ne sono vari altri bravissimi attori per piccoli ruoli, però loro avevano già dato in teatro, per cui sono stati scelti ed ereditati completamente dalla pièce teatrale, e devo dire grazie alla lungimiranza della produttrice Flavia Parnasi, la Combo Produzione e Rai Cinema, che hanno voluto produrre questo tema, questo soggetto, insomma io mi sono trovato poi con un materiale, sai quando fai il pane, che c'è già un buon pane diciamo piccolo, devi solo infarinare, lavorare, modificare, però diciamo di base il sapore già c'è, buono, di qualità, e quindi abbiamo lavorato partendo da un precedente importante, e devo dire i personaggi sono venuti fuori tutti quanti, perché con il cinema tu sai c'è la possibilità di avere il famoso primo piano, c'è la possibilità di approfondire psicologicamente senza più sentirli necessariamente parlare, cioè guardandoli negli occhi con la macchina da presa, e quindi queste cose qui vengono fuori maggiormente, e devo dire Nicola Pistoia con la sua irriverenza, con il suo dialetto a volte spinto, e Paolo Triestino con questa interpretazione sofferta ma comica, sofferta ma brillante, hanno dato tanto a questo film. Massimo, per chiudere, un film che restituisce anche una fotografia di una città, Roma, ma di un'Italia direi, in grande difficoltà nello scegliere l'atteggiamento da avere rispetto a chi è altro da te, diviso fra una non accettazione a priori, la scoperta invece del diverso come possibilità di arricchimento, lo sfruttamento da una parte, ecco c'è molta indecisione, e fotografa a mio modo di vedere proprio quello che è l'atteggiamento un po' di questo paese verso chi arriva da fuori. Io sono felice, guarda, di aver avuto in mano questo tema della immigrazione, che più della immigrazione è la integrazione insomma dell'immigrato, perché i barconi o gli arrivi strani degli immigrati li abbiamo già visti in tanta cinematografia, qui invece lui è arrivato e vediamo cosa accade dopo nella integrazione. Il tema è molto amaro e quindi, come dici tu, fotografa questa situazione, ma la cosa di cui sono rimasto contento è che sono riuscito, perché questo lo vedo oggettivamente, indipendentemente dalle ottime recensioni che stiamo avendo, e che sono riuscito ad avere il mio modo comico, a mantenerlo, il mio modo buffo, divertente, perché ci si ride tanto, però trattando un argomento così doloroso, e l'argomento rimane amaro. E il tema principale per me che rimane quando esci dal film è l'entusiasmo, e questo lo dovremmo capire noi tutti quanti, che dobbiamo apprendere dall'extracomunitario che arriva e porta tanto entusiasmo, si inventa mille cose, mille lavori, vuole darsi da fare, a differenza di due italiani, qui un fratello e una sorella, che in qualche modo ritorneranno poi a sedersi, cioè il treno lo prendono pure, via, lo prendono pure il treno, ma poi non rimangono sul treno, se ne scendono ritornando nel loro squallore. Quindi alla fine attenzione, io penso che gli extracomunitari e il migrante che giunge da noi porta con sé, naturalmente fate le dovute differenze, ci sta pure quelli che fanno i pasticci, per l'amor di Dio, però qui si vede proprio l'entusiasmo che porta al riscatto sociale e lui ce la fa. E allora grazie a Massimo Andrei per Ben-Hur, un gladiatore in affitto dei cinema italiani. Alla prossima. Grazie a voi. Ebbene, bene, allora questo era Ben-Hur, questo era Massimo Andrei, noi siamo arrivati alla prima traccia del nostro film misterioso di oggi, ascoltatela, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Per 400 anni abbiamo vissuto in pace, una pace vinta a fatica e vigilata. Lo siamo? Siamo in pace? E allora questa è la prima clip di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it, più tardi la seconda possibilità. Abbiamo un minuto per introdurre due film italiani, insomma qui con i tempi oggi purtroppo si corre, però ce la faremo, ne cominciamo a introdurne uno. Boris Sollazzo, ci sei? Eccomi qua. Eccoti qua. Allora, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea, Boris. Due italiani che arrivano in sala, sono due nomi importanti. Uno è quello di Michele Placido, che firma un film internazionale girato in Francia con grandi attori francesi. L'altra è Valeria Golino con il suo film da regista Miele. Sono due film molto diversi che però ci fanno venire fuori una riflessione, cioè quella di due nomi italiani. Abbiamo sentito anche Massimo Andrei, tre film italiani nella stessa settimana. Il rischio che si tolgano un po' di pubblico c'è. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, allora dicevamo film italiani, cominciamo con Il Cecchino con la regia di Michele Placido, tutta francese, ascoltiamo la clip. Se la mia intuizione è giusta, le 10 in punto rapideranno una banca, la 15ª in 2 anni. Al mio via avremo 5 minuti per intervenire e isolare la zona. E per i civili? Non sarà pericoloso? In 2 anni non hanno affrontato nessun poliziotto e non hanno mai sparato. Quando saranno accerchiati non faranno stronzate. E lei che ne sa? Che ne sa di quanto sono stronzi? Seguiamoli e fermiamoli altrove. Sono io che decido la strategia. Incursione nel polar proprio francese, classico, da parte di Michele Placido, con un cast altisonante: Matteo Cassovizzo, Olivier Gourmet, Daniel Auteuil, insomma nomi importantissimi tra gli attori del cinema francese. Con quali risultati, Boris? Molto inferiori alla qualità e ai nomi che hai appena citato. Il polar è un'arte che, insomma, dalle facce di Gabin a quelle di Belmondo va trattato con molta cura, un'arte puramente francese. E qui Michele Placido, secondo me, si trova da una parte nella condizione di vedersi imposti tre attori dalla produzione, che è un bel imporre, perché insomma Daniel Auteuil, Kassovitz, Gourmet li vorrebbero tutti. Però non è detto che magari in un film di genere, in cui poi hai almeno un paio di loro come Kassovitz e Auteuil, che scontano il fatto di essere già fortissimi in questo immaginario per film precedenti, poi possa essere realmente qualcosa di positivo. E non a caso i personaggi che ti rimangono più impressi di questo film sono un sempre ottimo argentero che riesce, secondo me, a cucire i personaggi anche e soprattutto quando sono piccoli, e il fonico del gruppo, insomma, non voglio dirvi oltre perché poi ha una scena che secondo me è la scena più bella del film, che sicuramente non sono i protagonisti. Il film Cecchino sembra avere costantemente uno squilibrio di sceneggiatura e visivo. Placido non sembra riuscire a dare realmente un equilibrio a questo film, e così, nonostante siano solo 89 minuti, 90 minuti, il film spesso ha dei tempi morti molto forti. Ci si fonda su questo segreto che unisce il bene e il male, segreto anche interessante, che forse poteva essere sviscerato in maniera più forte o poteva essere utilizzato in maniera più dirompente, e quella curiosità ti porta fino alla fine. Però il film nel suo complesso purtroppo è mediocre, e lo dico da fan di Placido, quindi mi dispiace il doppio. E invece Valeria Golino firma Miele, un film che affronta un tema potente, di quelli che poi fanno discutere, l'abbiamo visto con Bella addormentata di Bellocchio, ovvero quello della morte dolce, dell'eutanasia. Sentiamo la clip. Ma guardi, adesso non posso parlare, e comunque per tutte queste informazioni dovrebbe passare attraverso il nostro comune amico. Necessito l'amputato. Dos. Tieni. Si chiama Grimaldi. Stai attenta. Buongiorno. sono nelle sue mani. Telefono tuo. È un altro telefono. No, no, non è il mio. E poi vi spiego. Ieri sono venuti i carabinieri. Hanno chiesto di lei. Bisogna annullare l'operazione, c'è stato un equivoco. Non ci siamo capiti. Ci siamo capiti benissimo, l'operazione è conclusa. Seconda prova in pochi mesi per Jasmine Trinca da protagonista, e un tema, come dicevamo, che ricorre in pochi mesi ancora nel cinema italiano. Boris, evidentemente desideroso di dare uno spaccato, anche se qui forse più intimista rispetto alla grande questione sociale sul tema dell'eutanasia. Beh, non c'è niente da fare, come ricorderemo la tragedia di Luana Englaro, capitata poi, tra l'altro, il cinema non fa mai le cose a caso, durante un festival di Berlino, ha lacerato il tessuto sociale e morale di questo paese. Inevitabilmente il cinema non poteva non cogliere quel momento e raccontarlo. A mio parere Valeria Golino all'esordio è molto più brava di Marco Bellocchio nel raccontare l'eutanasia, perché rifiuta con intelligenza ogni scivolo politico, ogni momento di riflessione dogmatico, e la affronta con la pancia, con il cuore, con la testa di questa ragazza Miele, che si fa chiamare Miele, che dà la morte a chi non può più sopportare il dolore e che si trova a un certo punto, non diciamo come, non diciamo perché, in una situazione di forte contraddizione. Le sue regole, le sue labili regole crollano di fronte a un uomo che forse la strumentalizza, chissà. Questo film ha la forza di una regia rigorosa e difficile come quella di Valeria Golino, anche se gli rimprovero bonariamente, in un film molto bello, un inizio respingente e un finale forse troppo poetico, e però ha dalla sua una straordinaria Jasmine Trinca, che pure nel film non poco riuscito di diritti era davvero bravissima, e qui è pazzesca. C'è anche tutta un'interpretazione fisica del personaggio, che cerca vitalità attraverso lo sport, attraverso l'amore, cerca proprio di azzannarla, tutta quella vitalità che perde nel dare la morte agli altri. E poi un Carlo Cecchi che ti fa capire come noi abbiamo un patrimonio attoriale fuori dal cinema a cui potremmo attingere in maniera copiosa e non lo facciamo, e Carlo Cecchi è uno delle dimostrazioni di questi sprechi, uno dei più grandi attori italiani, che qui è clamoroso, straordinario. E allora, prova superata per Valeria Golino, con Miele, esordio alla regia, ricordiamolo, dal libro A nome tuo di Mauro Kovacic. E allora, parliamo adesso invece di effetti collaterali, che è un altro film, è una vena che il cinema americano, grazie al cielo, non perde mai, quella di raccontare lo stridore della società contemporanea, quello che è il cosiddetto impegno civile, questa volta ponendo la lente sul settore delle aziende farmaceutiche. Sentiamo questa clip. Amavo tutto di lui, le sue mani, l'odore della sua pelle. Mi ha fatto perdere la testa. Posso far tornare tutto com'era, Emily. Ti giuro che posso farlo. Vi ricordate questa bellissima donna? Ciao. Come vanno le cose tra voi? Finalmente riesco a dormire, ho più energia, facciamo l'amore. Chi produce questa medicina diventerà ricco. Allora, avete sentito un po' quello che è l'incipit, cioè qui siamo, intanto ricordiamo, regia di Steven Soderbergh, nel cast Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Rooney Mara e Channing Tatum. Come dire, c'è materiale umano importante anche davanti alla macchina da presa. La storia di una giovane donna depressa, un marito uscito di prigione e una rapporto con un dottore, uno psichiatra di successo interpretato appunto da Jude Law, che si fa, possiamo dire, in qualche modo circuire o comunque cede alle lusinghe di una casa farmaceutica che gli propone di cominciare a dare, non voglio usare il termine sperimentare, ma insomma cominciare a far girare all'interno però di un esperimento un farmaco che sembra, come avete sentito anche dalla clip, dare un benessere immediato a chi soffre di questa dura sindrome. E poi però a un certo punto le cose cominciano a scivolare. 911, dica. Ho bisogno d'aiuto. Hanno ucciso qualcuno. C'è stato un incidente. Cosa facciamo? Nessun segno di effrazione o di lotta. Dov'è il suo avvocato? Non l'ha voluto. Continuava a parlare di lei. Non capisco perché stia succedendo. La conosci? Emily, che succede? Dia la colpa alla Blix. Non dovrei più farmi curare da te. Qualcuno sarà punito. Distruggilo prima che distrugga te. Allora, avete capito che il clima del film a un certo punto cambia. Ci sono tante cose in questo film, tanta carne al fuoco. Il rapporto fra paziente e il suo medico, un rapporto che in questo caso diventa quasi morboso, soprattutto da una parte, quello della paziente. C'è il tema del medico di fronte al potere delle case farmaceutiche, al peso anche economico che hanno. C'è il tema della malattia e di quanto, di quale livello di accettazione, quale livello invece di cura ci sia nella società per la malattia. Insomma, sono tante le carte che Steven Soderbergh snocciola, come aveva fatto anche col precedente Contagion. Jude Law ancora protagonista, un film che soprattutto, Boris, nella prima parte mi sembra davvero molto ben fatto, poi chiaramente diventa magari un'altra cosa, diventa più un thriller, se vogliamo, con le sue soluzioni che ovviamente non stiamo qui a spiegare. Ma non c'è niente da fare, il buon Soderbergh da quando ha detto che non voleva più fare cinema ha iniziato a rinascere, e lo ha fatto secondo me con il gusto e il divertimento di chi voleva veramente scarnificare i generi, tutti i generi. Penso appunto al film catastrofico come quello che è stato Contagion, a quello erotico come Magic Mike, e qui è il thriller psicologico, diciamo una sorta di Hitchcock moderno, in cui, come dici tu, la prima parte è davvero notevolissima, la seconda è forse sconta la necessità di Soderbergh di voler strizzare l'occhio anche agli spettatori, e c'è quello che insomma in gergo viene chiamato lo spiegone di 10 minuti, in cui i nodi vengono al pettine, però ce li fa venire la protagonista, che davvero scadono rispetto alla qualità del film, che mi sembra un po' a livello del Match Point alleniano, no? Quel momento di estraniazione dalla propria cinematografia, che però è un'estraniazione felice, è la voglia di provare qualcosa di diverso e di riuscirci. C'è un Jude Law meno distratto degli ultimi anni, insomma, in cui faceva soprattutto performance alimentari, ovvero per portare a casa buoni cachet, ma non è che entusiasmava, e qui invece è molto brava. Brava Rooney Mara, che secondo me ha un potenziale straordinario, dopo il remake di Fincher di Uomini che odiano le donne, dimostra di essere un'attrice di livello. Insomma, a me questo Soderbergh che sta rifacendo la storia del cinema attraverso i generi, con piccoli ma gustosi film, piace molto, e piace anche effetti collaterali, se si escludono quei 10 minuti che dicevamo, però insomma si può sopportare come dazio per vedere un bel film. E allora, questo effetti collaterali, a questo punto seconda traccia del film misterioso di oggi. Questi non sono pecore, questi sono ronzini freschissimi. Ah, mi piacciono i cavalli, ma è piaciuti, non c'hanno abbastanza grasso. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray per il sabato e una per la domenica di questo film, di cui più tardi vi daremo l'ultima traccia. E allora, c'è ancora un film di cui vogliamo strenuamente parlare. Non abbiamo ancora una volta molto tempo a disposizione, però cerchiamo di inquadrarlo. Si intitola Muffa, è un film turco, è stato un film premiato a Venezia come migliore opera prima Leone del futuro fra tutte le sezioni del Festival di Venezia 2012. Ascoltiamo la clip. Perché non sono morto? In gioventù mi è capitato di tutto e non sono morto. Destino. Vuol dire che la mia sorte, la mia parte era questa. Nessuno sa come mi sento. Non sanno quello che provo. Tutti quelli che siedono su quella sedia me la fanno scontare. Mi hanno intralciato in tutti i modi. Ma io non ho mollato. E se Allah mi darà vita, non mollerò. E allora, l'introduzione è concettuale, diciamo così, di questo film, però come dicevo molto molto convincente, un'opera prima di grande potenza visiva. Boris, la storia di un uomo che aspetta, qui siamo collegati a un tema che ricorre, non solo qui parliamo della Turchia, ma ricorrerà presto con tipo un film come I giorni dell'arcobaleno, no, di Pablo Larraín, come una infanzia negata. C'è il tema del potere, dello strapotere, delle dittature militari, della gente che scompare, dei padri e delle madri che aspettano i figli. C'è un tema che comunque ha associato la storia con la S maiuscola alle vicende personali. Qui un padre che non vede il figlio da decenni, un uomo sulla sessantina, fa il guardiano delle ferrovie, da 18 anni invia lettere alle autorità della turche per avere notizie del figlio, che invece regolarmente non arrivano. Non si arrende all'idea che possa essere in qualche modo morto, ma questa ragione di vita lo spinge avanti alla ricerca, quasi sbattendo contro un muro in maniera continua. Un film potentissimo sotto il profilo visivo, che si tinge di una tensione interna degna di un giallo di alto livello, pur raccontando qualcosa che è estremamente interiore, potremmo definirlo quasi un giallo dell'anima. Sì, d'accordissimo. Il film ha, diciamo, per chi voglia vedersi un popcorn movie, l'unico difetto di tutto il cinema turco di avere, insomma, una pesantezza di struttura molto forte, anche visiva. C'è una reiterazione di immagini molto belle che viene portata avanti più volte, quindi questo per far capire che nel momento in cui bisogna andarlo a vedere, bisogna andarlo a vedere in qualche modo preparati. Detto questo, parte da una storia vera che coinvolgeva in verità un gruppo di madri, e il regista, con una scelta molto matura per un esordiente, per evitare la retorica, capovolge la situazione, quindi fa diventare il padre un padre molto, tra l'altro anche molto apparentemente anaffettivo, quello che aspetta il figlio, e in questo modo dà tutta la forza alla storia e non all'emotività. E questo racconto, questa metafora della ricerca di qualcosa che se n'è andato, dello strapotere e dell'abuso di potere, che fa sì che non si possa avere in alcun modo giustizia e ci sia questa sorta di inesorabilità dell'ingiustizia, secondo me viene reso benissimo da questo Ali Aydin, che davvero, insomma, dobbiamo fidarci che non abbia fatto altri film, perché è molto molto difficile immaginarlo. Ha una maturità di direzione degli attori e divisione delle immagini che abbiamo visto raramente. E allora, questo era Muffa, l'ultima fra le novità sul grande schermo di questa settimana di cui vi abbiamo parlato. Grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, rush finale per la nostra trasmissione, con i film scelti dai palinsesti televisivi insieme agli amici di Film TV. Con noi c'è Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, e un saluto ai radioascoltatori. Allora, abbiamo una strana coppia anche questa settimana di film. Cominciamo con un western firmato John Ford, si intitola I dannati e gli eroi. Sì, martedì ore 21 su Iris, I dannati e gli eroi. Storia di un tenente che difende in un processo un sergente di colore. È un film singolare per John Ford, che qui pare aprirsi a idee, diciamo, più liberali. È un western che si trasforma in uno scandaglio del radicato razzismo americano in maniera decisamente acuta e tutt'altro che banale e didascalica. I temi del maestro del western ci sono tutti, ma è una pellicola dall'inedito respiro sociale per Ford, oltre a essere un riuscito esempio di contaminazione tra il western e il genere processuale, con una costruzione molto tesa di incasti tra presente e passato, da non perdere. E allora non perdetelo, martedì 7 maggio alle 21 su Iris in prima serata. E il prossimo appuntamento invece va ancora più in là, sabato prossimo, quindi segnatevelo, ma è un film necessario, come si suol dire. Stiamo parlando del Cappotto, un film che, come dire, traccia Gogol e lo riporta quella che è la sua vera anima. Esattamente, sabato alle 7:15 di mattina su Rete 3, Il Cappotto. storia di Carmine De Carmine, un umile impiegato che ha un unico sogno, comprarsi un cappotto, appunto. Quando finalmente riesce ad acquistare l'indumento, un ladro glielo ruba, lasciandolo vagare nel freddo della notte di una pavia nebbiosa e surreale degli anni 30. È uno dei film migliori di Alberto Lattuada, che si emancipa dal neorealismo e adattando con piglio ironico un piglio ironico e pessimista tra il patetico e il grottesco un celebre racconto di Gogol. Grandissimo qui, molto più del solito, Renato Raschel. E allora, esattamente, Renato Raschel, grande figura tragica di questa, di questo film di Alberto Lattuada, Il cappotto, sabato prossimo alle 7:15 del mattino, quindi o vi svegliate o mettete il registratore su Rai 3. Grazie Giulio San Giorgio, alla sua settimana prossima. Ciao Franco, alla prossima settimana. E allora a questo punto è arrivato il momento di giocare con l'ultima traccia, l'ultima clip misteriosa di oggi. Sempre deve intrometterti in cerca di guai dove non esistono. Lasciatelo parlare. C'è qualcosa all'opera dietro il male di Smaug, qualcosa di molto più potente. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. 7 giorni fa vi avevamo proposto un film non facilissimo, soprattutto perché il nostro Claudio Povi aveva selezionato una traccia un po' tranello all'inizio. Sentiamola. Ah, tu con le ruote della bicicletta dovevi costruire una sedia a rotelle per tuo padre paralitico dopo l'incidente. Ma mio padre sta bene. Male. Invece doveva essere investito da un camion mentre tornava a casa dalla fabbrica col lampadario sul manubrio della bicicletta. Si trattava di Ladri di saponette, non di Ho fatto splash. La prima traccia, la prima clip era la pubblicità finta di Ho fatto splash, che c'era già in Ho fatto splash di Nichetti, ma poi l'aveva riproposta proprio i Ladri di saponette, che invece era il film, e lo si scopriva poi nelle altre clip della scorsa settimana. Lo abbiamo fatto con grande gioia questo game, perché per la prima volta Ladri di saponette esce in DVD con 100 minuti di contenuti speciali curati dallo stesso Maurizio Nichetti. È una grandissima, grandissima edizione. Adesso ce ne parlerà Claudio Poffio, vi dico solo che è stata anche oggetto di una presentazione a Merano nei giorni scorsi nell'ambito del Festival Resistenze, della settimana di cinema resistente, con Nichetti in sala, che appunto ha raccontato la genesi di questa edizione in DVD, che segna anche l'esordio di una nuova etichetta. Noi siamo sempre felici quando una nuova etichetta di distribuzione a un video si affaccia sul mercato non facile come questo, la Mustang distribuita a Cecchi Gori, che appunto porta nelle case Ladri di saponette per la prima volta. Claudio, un buongiorno intanto, e un film da riscoprire, ma con un DVD sontuoso per quanto riguarda i contenuti speciali. Sì, ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sicuramente è un'edizione molto importante quella di Mustang Entertainment, veramente da collezionisti. Il film è decisamente di eccellente qualità, siamo nettamente al di sopra della qualità media a cui siamo abituati con il DVD, proprio grazie alla presenza di un master addirittura 4K. C'è stato un restauro dell'originale pellicola 35 mm, un restauro assolutamente strepitoso. C'è una traccia Dolby Digital 2 canali in italiano di buona qualità, che offre appunto quella originale del 1989, e come dicevi giustamente tu, tantissimi extra, tutti supervisionati dallo stesso regista. Io segnalo alcuni più importanti: il commento di Nichetti sul film, bellissimo, ci sono i provini degli attori, backstage, immagini addirittura della prima al Cinema Excelsior di Milano, sala che ormai non esiste più, e persino la comparazione di un paio di sequenze tra storyboard e girato. E beh, insomma, davvero davvero molto molto ricco questo DVD Ladri di saponette, film tra l'altro rivisto sul grande schermo, davvero strepitoso fra l'onirico, il grottesco, il surreale, la cifra insomma proprio di Maurizio Nichetti. Lo hanno vinto, dobbiamo dirlo, non abbiamo ancora dato i vincitori la settimana scorsa: Mauro Beri di Azzate, provincia di Varese, e Franco Cipriani di Padova, che riceveranno il DVD di Ladri di saponette a casa. Allora Claudio, un paio di consigli invece fra le novità in on video, cominciando da quello che a mio modo di vedere, almeno per quello che non è il cinema extra italiano, è davvero il film dell'anno, ovvero Vita di Pi. Dunque, ero seduto in questo bar a Pondicherry un pomeriggio, ero amareggiato per la mia perdita, quando un vecchio al tavolo accanto ha cominciato ad attaccare bottone. Sì, ma Magì fa queste cose. Quando gli dissi che avevo abbandonato il mio libro, lui replicò: allora, un canadese è venuto nell'India francese in cerca di una storia, bene amico mio. Conosco un indiano nel Canada francese con la più incredibile di tutte le storie da raccontare. Deve essere destino che tu e lui vi incontriate. Intrapreso un lungo viaggio in mare dall'India verso il Canada assieme alla famiglia e allo zoo del padre, il giovane Pipatel si ritroverà apparentemente solo dopo un tragico naufragio, salvo poi realizzare che nell'unica scialuppa di salvataggio uscita indenne dal terribile uragano è sopravvissuta anche una affamata e bellicosa tigre del Bengala. I due dovranno imparare a convivere per non soccombere all'avversità. Diretto dal premio Oscar Ang Lee, un poetico ed emozionante viaggio tra fede e razionalità, da 20th Century Fox Home Entertainment, l'edizione è un video DVD ma soprattutto Blu-ray con una completissima pubblicazione che contempla sia la versione bidimensionale che quella su disco esclusivo in 3D, sono entrambe strepitose, in particolare quella stereoscopica, dal momento che il film è stato effettivamente girato in tale modalità. C'è una traccia DTS 6 canali di qualità per l'italiano e una addirittura DTS ad alta risoluzione, 8 canali per l'inglese. Sono tanti extra sul disco 2 con focus sulla lavorazione, però attenzione perché sul disco 3D ci sono scene tagliate, analisi degli effetti visivi e trailer che sono tutti capitoli visionabili in 3D. E parliamo invece di un omaggio al western italiano. Non è solo Tarantino che li fa gli omaggi al western italiano. Nel 2007 l'ha fatto anche Takashi Miike con Sukiyaki Western Django. E fu la guerra. Un po' come la guerra delle rose. Hai presente? E chi la vinse? Forse i bianchi? La battaglia finale si svolse a Dannanora. Fu lì che il clan dei Rossi venne completamente circondato da quello dei Bianchi. Diciamo che la situazione è un po' come questa. In un villaggio giapponese che ricorda molto quelli del West di frontiera dell'Ottocento, giungono due bande criminali, i Bianchi Genji e i Rossi Raike, pronti a sfidarsi a colpi di pistola, balestre e spade per mettere le mani su un incredibile tesoro celato nei paraggi di cui però nessuno conosce l'ubicazione. Uno straniero e formidabile pistolero sarà conteso dalle due gang fino a una sanguinosa resa dei conti. Il prolifero Takashi Miike nel 2007 girava questo divertente e iperbolico omaggio agli spaghetti western di Corbucci e Leone, reclutando addirittura nel ruolo di narratore niente meno che Quentin Tarantino, grande ammiratore del regista giapponese. Nonostante il notevole ritardo, il film è giunto in un video grazie a Dynamic, con una disponibilità non solo del DVD ma soprattutto del Blu-ray, quest'ultimo di eccellente qualità d'immagine. Sono due tracce di DTS ad alta risoluzione italiana e inglese, sono entrambe notevoli. Gli extra non sono tantissimi ma sicuramente succulenti, perché oltre alle scene tagliate c'è un appassionante di le quinte di 50 minuti. E allora, questo era Sukiyaki Western Django. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora ringraziamo i nostri collaboratori alla console Peter Bescapè, in redazione Giorgio De Luca. Vi ricordo come sempre la nostra pagina Facebook, più ricca che mai, La Rosa Purpurea Radio 24, cercatela su Facebook e cliccate mi piace per poter poi scaricare podcast della puntata, classifiche, trailer, novità durante tutto l'arco della settimana. Io vi do appuntamento alla prossima invece di settimana qui con La Rosa Purpurea, il sabato alle 15, la domenica alle 18. Un saluto da Franco D'Assisti.